Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in scena. È nato a Napoli nel 1946. Il padre era un batterista e percussionista che suonava nell'orchestra del Regio Teatro San Carlo. All'età di 13 anni comincia a suonare nei nightclub della città, molto frequentati dai soldati americani, e inizia a appassionarsi al jazz. All'età di 23 anni si trasferisce al nord, prima a Torino, poi a Milano. Inizia a collaborare con grandissimi artisti italiani come Pino Daniele e stranieri. Nei primi anni 70 entra nel Franco Cherry Quartet. Nel 1981 realizza con il pianista Oscar Rocchi l'album Metamorphosis. Come cantante ottiene un enorme successo con Andamento Lento, con la quale partecipa a Sanremo 88 e vince il Festival Bar. Nel 2008 torna a suonare dopo quasi 30 anni con Pino Daniele, insieme agli stessi musicisti dell'epoca, Senese, Esposito, Zurzolo, Amoruso. Tornano a suonare spesso insieme. Nel 2014 scrive il suo primo libro intitolato Tempo, la mia vita. Lo ha intervistato per noi Mauro Meazza. Lui è Tullio De Piscopo. Tullio De Piscopo, uno dei più grandi batteristi jazz e non solo jazz della musica italiana, ma anche qualcosa di più. Buongiorno Tullio, innanzitutto. Buongiorno a tutti. Parliamo di Tullio De Piscopo e parliamo con Tullio De Piscopo non per questioni musicali, ma perché c'è un libro in libreria che si chiama Tempo, e come si poteva chiamare un libro scritto da Tullio De Piscopo, La mia vita, un libro edito da Oepli che trovate in libreria, trovate anche come ebook, cioè come formato digitale. Ma perché questo titolo, Tullio? Avevamo fatto tanti tentativi, no? Chi diceva ritmo? Perché in un primo momento il titolo era Vado, l'ammazzo e torno. E certo, e questo perché il libro comincia appunto da una vicenda molto personale, cioè la vicenda di una malattia che ti ha purtroppo colpito di recente, da cui sei uscito vittorioso, possiamo dirlo, sì? Sì, certo. Molto bene, questo ci fa tantissimo piacere ovviamente. La mattina che il portantino venne a prelevarmi alle sei e mezza del mattino, mi venne a prendere col letto, direttamente col lettino che avevo in camera. Mia moglie è una molto dura, molto tosta, è montanara della provincia di Modena. Ho visto che cominciava a piangere, allora mentre andavo mi sono girato e gli ho gridato: non piangere, vado, l'ammazzo e torno. E con questo dimostrando la determinazione che poi si coglie nel libro, perché il libro è veramente divertente da leggere, nel senso che ci sono tantissime cose, è la tua vita, la tua carriera, i tuoi studi, la tua musica. Sì, gli aneddoti, cose, aneddoti anche di grandissimi musicisti con cui tu hai suonato, si parla di Quincy Jones, di Astor Piazzolla, di Giorgio Gaber, di Fabrizio De André, insomma adesso avrei bisogno di una ventina di minuti per citarli tutti. Allo stesso livello parlo anche di musicisti piccoli, sconosciuti. Tu racconti nel tuo libro, è una frase tua molto bella, la mia è una storia di sudore, di fatica e, come sempre, di un pizzico di fortuna. Esatto. Scivola, scivola, come non da libera ti porta via. Andamento letto, questa melodia, risonanze nere senza ipocrisia. Andare un po' più su e vieni con me, oh, e vieni con me, oh. Alle lagne una pista a me, show me the way, oh, show me the way, oh. Alle lagne, e sono ad esempio racconti delle città che un po' hanno segnato la tua carriera, le città italiane soprattutto, ovviamente Napoli, ma questo sarebbe scontato, però anche ad esempio Sanremo, o forse non lo sanno tutti, Bologna, perché tu a Bologna hai trascorso una fase della tua vita importante, insomma un momento in cui ti sei messo ulteriormente a studiare. Certamente, sì, ho avuto il tempo di riprendere gli studi che avevo smesso a Napoli per necessità, perché non andava molto bene. Dopo la morte di mio fratello, che aiutava la famiglia, ho capito che dovevo aiutare economicamente. economicamente anch'io la famiglia, quindi certo. Mi messo a suonare prima nelle compagnie di avaspettacoli, poi nei piccoli night club, poi nei grandi night club, e dopo il militare, perché io ho fatto pure il militare. Sei riuscito a fare anche il militare, però tra l'altro suonando per almeno per una parte del militare, giusto? E bersaglieri. Ah. Una cosa che mi sconvolse appena arrivai al passo al CAV di Roma, dal passo Carrai c'era scritto bersaglieri di corsa automezzi al passo. Pazzi, disse io, ma buoni, incominciamo bene. Certo, perché il bersagliere va sempre di corsa, anche lì è una questione di ritmo, diciamo. Ti hanno tenuto, anche l'esercito ha visto lungo in qualche modo, ha visto che tu potevi essere quello che dettava il ritmo anche in quel caso lì. E difatti mi diedero da suonare il basso tuba, perché nella fanfara dei bersaglieri non esiste percussione, solo ottoni. E come ti sei trovato col basso tuba, così per chiedere? Mamma mia, avevo un labbro enorme alla fine, però mi sono trovato bene, per fortuna, perché poi non ho mai visto un'arma, che io odio le armi, stando nella fanfara, quindi avevamo dei privilegi, no? Eri un pochino più comodo, insomma. Vive da sé, se non ti sei accorto con un diciamo, la gente che tu ha del se ne fotte niente, ma non è come tutto sta con male lì, allora lui, oh, tieni la me, per chi non si fa male lì sta nasa a me, e si vita pacente su un guai e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, te! Volevo raccontare, il libro è pieno di aneddoti, davvero. Ce ne sono due che mi hanno un po' più colpito. L'uno è quando un giovane Gino Paoli strappa un ancor più giovane Tullio De Piscopo allo studio della batteria, perché tu ti stavi esercitando sotto il solleone, sotto una tettoia di lamiera sotto il solleone. Sì, sì, il tettino era di lamiera del palco. Ecco, e tu stavi studiando. Mare all'erici. Ecco, e Gino Paoli ti dice, basta, piantala lì, vieni a fare il bagno. Ma poi ci sei andato a fare il bagno o no? Hai continuato a esercitarti? No, l'ho convinto a suonare con me. Ah, e allora vedi. E io gli dissi, no, non posso, mio padre si arrabbia. Ah. E mi disse, ma dove è tuo padre? È a Napoli. Ma va! Vieni che non ti vede! E poi c'è un altro aneddoto molto divertente. Il giorno che ti rubarono i sedili dell'automobile... E allora, sì, ma tu poi come hai guidato? Come hai guidato? Perché se ti sei comunque mosso con la macchina e hai usato cosa per poter guidare? Cioè, in un attimo, no? Io cercavo la macchina quando sono sceso di casa, ero a Trezzano sul Naviglio, ma non la trovavo. Poi mi sono accorto che era quella lì, color corallo, la mia A500, e non c'erano i sedili però, davanti, i due sedili. Oddio, come fare? Perché avevo appuntamento alla RAI, dovevo registrare con l'orchestra della RAI. Corsi in casa e presi la custodia di un tamburo, una custodia rigida. Sì. E mi misi lì sopra senza schienale e sono andato avanti per un po' di tempo con questa. Quindi... Ecco, forse i miei grandi dolori di schiena sono dovuti anche a quello. Facevo fatica a trovare dei sedili perché comprarli nuovi non avevo i soldi. E quindi andavo sempre dai rottamai, trovai un solo sedile per il guidatore, però era di una 600, me la misero, poi quindi lasciai lo spazio di fianco al guidatore per poter mettere la batteria e le percussioni. Ah, vedi, avevi inventato un van ancora prima che fossero in commercio. Tullio, che musica ascolti di solito? Tutta la musica o hai un genere che preferisci? Ma io ascolto tutta la musica, ma soprattutto il jazz. Certo, e come mai? Come no? Primo grande amore che ho conosciuto attraverso i dischi che giravano in casa quando ero piccolino, grazie a mio fratello Romeo, che anche lui era musicista, batterista. Vedevo questi dischi di Max Roach, di Gene Krupa, di Miles Davis, Charlie Parker, Shorty Rogers. Ecco, sin da piccolo ho conosciuto il jazz e quindi ero un po' diverso dagli altri coetanei che ascoltavano le canzonette. Certo. Io già fraseggiavo alla Charlie Parker, per dire, no? Io ricordo il tuo libro che si chiama Tempo, la mia vita, di Tullio De Piscopo, lo trovate in libreria, edito da Oepli, lo trovate anche come ebook. Grazie, Tullio. La musica è come un abito che ti cuci addosso, no? E una volta cucito non vuoi più disfartene. Ed è tutto per questo Voci in Scena, oggi con Tullio De Piscopo. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.